mai? Come? Basta, mi indigni un po', ma non funziona neanche il megafono. Un pochettino devi indignarti, se no. Ma il megafono che funziona, sai? Che uomo socialmente utile sei, Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Ecco, oggi parliamo di dislessia. Dislessia. Insomma, in Italia negli ultimi anni abbiamo esagerato un po' nel definire dilessici i bambini. No, Drago, dislessici, non dilessici. Sì, ma infatti, è che sono dilessico e non riesco a leggere la parola dilessico. Dislessico, Drago. Dislessico, Dargo. In pratica ci siamo accorti di colpo che al 20% dei bambini delle scuole elementari veniva diagnosticata la dilessia. Dislessia. Ok, facciamo che per questa volta mi lasci dire dilessia senza correggermi tutte le volte, eccetera, Ok. Anche perché se no mi fai sentire ancora più dilessico di quanto già sia per tu conto mio. Tu non sei dislessico. Non sono dislessico. No. Cioè, lo sei solo per la parola dislessia. Che è derivati e che diventa dilessia o derivati. È molto difficile dire dislessia, visto che Grazie. Comunque, genitori in ascolto, qui sto 20% di bambini dislessici in realtà è soltanto il frutto di diagnosi affrettate. Eh sì, come il fatto che tu non avessi niente. È una diagnosi affrettata. Guarda come stai, stai malissimo. Secondo me c'hai un male gravissimo. Ma non sono dislessico. Comunque è la moda quella, Drago. È la moda. C'entra la moda adesso con la dislessia. Per le malattie dei bambini funziona tutto a ondate, per moda. Per certi anni va di moda dire che i bambini sono tutti ipercinetici e si consigliano psicofarmaci a casaccio, Ritalin. Poi adesso è la volta della dislessia e allora basta che un bambino fatichi un po' a leggere e subito tac, dislessico, tac, infatti, insegnante di sostegno, tac. Pensa K che è intervenuto in tutta la sua autorevolezza l'Istituto di Ortofonologia di Roma. Ah, ortofonologia riesci, non riesci a dirlo, invece dislessia no. Non riesco a dirlo. Che ha detto, insomma, sciocchezze. Solo sciocchezze. Il 3% dei bambini italiani soffre davvero di dislessia. E il restante 17%? Di quel 20% è sano come un pesce. Insomma, tranquille mamme, la dislessia o dilessia o dissellia o come cozza si dice è una malattia piuttosto rara. Rara, non puoi sbagliarti, no, sono due sillabe uguali, sì. Rara. Potrei dire Arar. Il monte Ararat. Sì. Tito, dai! Non dimentichi. Ti chiamo il famoso addensante Agar, te lo ricordi? Sapevo. Stitto, dai, però ha ragione, però sono dei giorni che non lo porto a fare la pipì, sto E ora, bambini, ricreazione! Ma poi nel resto ti aspetterei. Joris! Non mi importa che Joris! Alberto, ciao! E allora, ma io stavi cantando? Certo. Sembra guardare in cielo. Mette buon umore cantare. Tra l'altro ti stavo cercando. Perché? Ti andrebbe, te lo dico così, generico. Sì. Di andare a fare una settimana bianca. Che vuol dire? Come che vuol dire? Settimana bianca, andare in montagna a sciare, no? In montagna? Non sono mai stato in montagna, no. Alberto. Allora, non si paga niente. Davvero, non si paga, no. Bravo. Allora, qui ogni anno i miei genitori... Tienilo in mente questa cosa che non c'ho soldi. Allora, aspetta un attimo, se no mi fai passare la voglia. Allora, va bene. I miei genitori, che sono comunisti, ogni anno, in settimana bianca, invitano un bambino poverissimo, solitamente un extracomunitario. Però io mi annoio, no? Perché questi bambini non parlano italiano, io voglio avere qualcuno con cui giocare, visto che viene... settimana bianca sbaffo, aspetta! Quindi, mi chiedevo... Alberto, però mi stai... Visto che tu... allora? Mi stai usando, Alberto? Sta venendo in mente una cosa, che forse tu mi stai usando in questo momento. Ma come ti sto usando se ti sto offrendo l'occasione della vita? Di vedere la neve, la neve? Sì, ho capito, però anche il fatto che tu mi porti perché io sono povero... Sono contento, ma non sono contento. Vabbè, sì, perché se avevi i soldi ti offrivo la settimana bianca. Infatti, Alberto, però io questo che non ho capito il tuo piano. Qual è il piano? Ma quale piano? Qui non c'è niente di sotterfugi, sempre a vedere cose maligne. Allora, qui si tratta che i miei genitori sono disposti a offrire una settimana bianca a un bambino povero. Va bene? Va bene. Il bambino povero potresti essere tu, o no? Sì, come potresti? Solo. Sei? È povero. Ecco, l'unica cosa, ci manca una roba burocratica. C'è qualcosa che attesta che sei povero veramente, non che ci prendi per il naso, no? E ti porto mia mamma, te lo faccio dire da mia mamma. Ma no, un foglio di carta, con tuo padre dice, qui siamo poveri veramente. È un timbro. Ah, ok, quindi devo fare tipo la giustificazione con mio papà. Una roba, un'autocertificazione. Va bene, con scritto che noi siamo poveri. Va bene, non c'è problema, quella è l'auto. E poi basta quello, i miei accettano e poi ti comunichiamo la partenza. Ma quale partenza? Dove andiamo? Cosa andiamo in a fare? In montagna andiamo a sciare, no? Ski lift. Sci, il sci, no? Il sci. E come li porti? Sci, io non ce l'ho gli sci, Alberto. E gli sci, vabbè, ma... Poi io ho tanti costumi, ma non c'ho il giubbino, giacca a vento, gli scarponi, i guanti, il cappello, la giacca a vento, c'è quella mia... dell'anno scorso? No, Alberto, no, ognuno le sue cose. Io voglio la mia giacca a vento. Se vuoi che venga, mi devi comprare i scarponi, mi devi comprare la sciarpa, i cappelli, i guanti. E allora così no, e allora? Adesso ti prendi tutto un dito, ti prendi tutto il braccio. Ma scusa, ma... Allora, comincia a venire in montagna, che non ho mai visto neanche la neve. E già vuole sciare. Aspetta un attimo, no? Magari arrivi lì, c'è lo shock. È una cosa che non dipende da te, il tuo organismo rifiuta la neve e il freddo. No, no, ma perché noi siamo. Noi ci ambientiamo subito, lo sai da dove vengo io? Lo so. Noi ci ambientiamo. Come gli scarafaggi vi ambientate. Senza offesa, eh? No, no, ma quando mai? Quale offesa, Alberto? Bella, ci sta pure una canzone di Pino che dice: ogni scarafone è bella mamma sei. È bellissima. Alberto. Ciao, è finita la creazione. Continuiamo domani, per la settimana bianca. Va bene, Alberto, ti aspetto. Ci vediamo domani qui. Ho scoperto che Pasquale forse è nato a Cefalù. Oh, K, guarda qui il Time, chi c'è in copertina? Signor Marchion, Marchion. Ma no, basta, Drago, articolo, anche nel 2012 Marchion. Articolo lascia. Interessantissimo, in America di lui si parla esattamente al contrario di come se ne parla in Italia, al contrario. E del maglioncino cosa dicono? Ci credi se ti dico che non dicono niente? No. Articolo smisurato. Ma come? Si dice che è sempre operativo, che ama la musica rock, ma non si parla mai del suo look. E questa è la serietà della stampa straniera. Ma io di Marchione parlerei solo per cercare di tracciare una fenomenologia del maglioncino blu. Fenomenologia del maglioncino blu. Se vedi? Se fenomeno, lo direbbe anche Umberto Eco, direbbe certo. Fenomenologia. Bravo. Grazie. Ho capito, due decenni di politica spettacolo, economia spettacolo, tutto spettacolo, e diventiamo tutti interessati alle sublimi putanee alla Guia Soncini come il maglioncino. Ma, Drago, ma la Fiat è sempre stato un fulcro per certe abitudini, no? Che poi si sono sparse tra la gente comune. Vedi, per esempio, non so, l'orologio che l'avvocato Agnelli portava sul polsino della camicia. Quello è un trend che è stato settato, si può dire, trendsetter, settato in però Fiat. Dai, non è che Fiat si sia usato tanto, perché non tutti avevano un bello orologio dell'avvocato Agnelli da far vedere. Sì, ho capito, ma no, allora prendi, non so, il suo nipotino prediletto, l'Apo. Le serate a base di coca e trans hanno spopolato di brutto in tutto il paese. Sì, tutti dicono, in questo senso l'Apo ha fatto meglio dell'avvocato, cioè è riuscito a entrare di più nello l'avvocato spirito. L'avvocato non contemplava trans nelle sue serate. Cocaina sì. Ma chi lo dice? Si dice, ma non è suo. Tanto non è bello parlare di queste cose, soprattutto se la persona in questione, dopo anni di popolarità pari solo a quella dei sovrani, anni di potere economico, politico, culturale, anni di lusso ostentato, anche la persona in questione, cioè Gianni Agnelli, purtroppo è morto. Non si parla così dei morti. Va bene, comunque dai, l'orologio al polsino dell'avvocato possiamo farla passare, ok. Sì. Le trasgressioni di Lapo anche sono state famose, sono state imitate, eccetera. Però il maglioncino di Marchionne è segno dei tempi che cambiano, Drago. Marchionne non è un tipo da coca e trans, è un tipo da maglioncino. Sì, un tipo da repliche della Signora in Giallo, dischi dei Genesis, serate tranquille. L'ideale per farne un trendset. Ma veramente in America lo ammirano come imprenditore, se ne fregano dei suoi gusti. Per forza, gli ha salvato il culo. Altro che maglioncino blu. In Italia invece cioè meglio per lui se ci interessiamo del maglioncino, perché come imprenditore italiano non potremmo che parlarne male, lo fanno tutti. Soliti provinciali italiani. Tra le righe lo fanno tutti, poi tu sei il solito provinciale sterofilo. Vabbè, allora, d'accordo, scrivete a chiedoasilo@radio24.it e mandateci i vostri pensieri profondi sul marchioncino blu di Maglione, anzi sul maglioncino blu di Marchionne. Ma perché? Ma ti sembra una cosa da chiedere al pubblico? Esatto, ma è questo che volete, basta saperlo, ve la meritate la figlia di Rodotà, ve lo meritate signorini. Ve li meritate tutte queste persone. Ma tipo chi? Tipo Carmelo Lauricella, ce lo meritiamo?